Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Marina Petrella rischiava di morire, bisognava interrompere il suo sciopero di fame e sete e così ho applicato una clausola umanitaria. Così il presidente francese Sarkozy ha spiegato il perché del dietro front sull'estradizione in Italia di Marina Petrella. Petrella faceva parte delle Brigate Rosse dell'ala militare di Roma. In Italia è stata condannata in via definitiva nel 93 all'ergastolo, tra le accuse aver avuto un ruolo negli omicidi del poliziotto Sebastiano Vinci, del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, del tentato rapimento dell'ufficiale della Digos Nicola Simone e del rapimento d'Urso. Sarkozy aveva detto sì all'estradizione in un primo tempo, ma da quando era stata avviata la procedura le condizioni di Marina Petrella si sono notevolmente aggravate. È nato anche un movimento, insomma, che chiedeva al presidente di fare retromarcia. In prima fila la moglie di Sarkozy, Carla Bruni, con la sorella, l'attrice Valeria Bruni Tedeschi. Infatti sono state loro, e questo ha suscitato anche ulteriori polemiche, discussioni, sono state loro ad andare qualche giorno fa in ospedale per dire alla Petrella sostanzialmente lei non verrà più estradata in Italia, vedrà che il presidente ha deciso così. Le polemiche perché Sarkozy da qualche anno era stata modificata quella dottrina Mitterrand che per anni aveva garantito asilo in Francia agli ex brigatisti, a chi aveva compiuto reati all'estero, una teoria che era stata appunto abbandonata, e Sarkozy pare assicurare non verrà ripristinata, insomma è una questione singola per motivi umanitari, ma certo i timori politici ci sono. Ragioni umanitarie oppure il ritorno alla dottrina Mitterrand? Il caso Marina Petrella, ne parliamo oggi, la mancata estradizione, e lo facciamo con da Parigi, la saluto, Elisa Novelli, buongiorno, è la figlia di Marina Petrella, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Così come voglio salutare il nostro collega Andrea Casalegno del Sole 24 Ore, ma lo sapete, è già stato ospite, abbiamo parlato del suo libro di recente, figlio di Carlo Casalegno ucciso dalle Brigate Rosse. Dopo essere stato ferito il 16 novembre 77, è morto il 29 novembre dello stesso anno. Ben ritrovato Andrea, buongiorno. Buongiorno. E così come voglio salutare l'onorevole Sabina Rossa del Partito Democratico, figlia di Guido Rossa, sindacalista ucciso sempre dalle BR il 24 gennaio del 79. Benvenuta Sabina Rossa. Buongiorno a voi. Anche un saluto a Eric Joseph di Liberation a Roma. Buongiorno, ciao Eric. Buongiorno. Alle 9:11, il caso Marina Petrella, l'estradizione che non ci sarà dalla Francia all'Italia per ragioni umanitarie. Elisa Novelli è una delle due figlie di Marina Petrella. Senta, qual è l'ultima volta che ha sentito, ha visto sua madre, e come, se ci può dire, come ha reagito alla notizia? Allora, io l'ho vista domenica pomeriggio. È molto debole, quindi non ha reagito con parole o con gesti che non potrebbe farli. Era molto commossa, estremamente commossa, e credo che con questo nuovo fatto potrà cominciare a fare un lavoro psicologico che le permetterà di riacquistare le condizioni fisiche. Il presidente Sarkozy ha detto rischiava, secondo anche aver sentito il medico di sua madre, rischiava di morire addirittura? Sono i medici che nell'ultimo bollettino medico appunto hanno espresso questa possibilità. Mia madre è arrivata a delle condizioni fisiche molto gravi, non può vivere senza un aiuto medico, non mangia e non beve oramai da 6 mesi, quindi tutti questi fatti più una condizione psicologica assolutamente nera, diciamo, ecco, la portano a non poter più vivere in autosufficienza. Senta, le chiedo, sulla stampa, giornale che probabilmente lei non vede da Parigi, ma insomma sulla stampa di oggi soprattutto, il ministro alla difesa Ignazio La Russa ha fatto un'intervista di cui le leggo qualche stralcio. Ero Sostanzialmente dice la russa a Francesco Grignetti: guardi, se fosse trattato di una decisione motivata da motivi squisitamente umanitari, l'avrei potuto anche capire, non dico giustificare ma comprendere. Invece, chiede Grignetti, invece, siccome questa signora l'ho appena vista in televisione, posso dire che mi sembrava bella riposata. Ho la sensazione dunque che questa motivazione non sia sincera, non l'avessi vista coi miei occhi la signora Petrella, che parlava, rideva, giocava, salutava, mi pare anche con un pugno chiuso, ma potrei sbagliarmi. Insomma, non l'avessi vista, avrei potuto convincermi che la decisione francese fosse basata sullo stato di salute, ma siccome mi è sembrato che la signora stia meglio di me, oddio, potrei anche sbagliarmi, anzi me l'auguro proprio, ma non mi è sembrata una degna di tutta questa considerazione. Insomma, il ministro La Russa ha detto: ha visto sua madre in TV e dubita di questi motivi umanitari dello stato di salute. Come dice lui stesso, il ministro La Russa sbaglia assolutamente. Sbaglia perché crede a quello che ha visto, all'immagine che ha visto in televisione, e si sa che le immagini possono anche datare di qualche mese. Effettivamente anch'io ho visto le stesse immagini del ministro La Russa. Cioè, a quando risalgono queste immagini? Allora, la Corte di Appello di Versailles, quindi ma dicembre, diciamo, da settembre a dicembre, quando mia madre era presente per discutere di un'eventuale libertà provvisoria. Non sono immagini di ieri, insomma, non sono immagini di questi giorni. No, né di ieri né di 6 mesi fa, visto che mia madre già da 6 mesi è in ospedale, quindi effettivamente erano delle immagini riprese dalle telecamere che c'erano spesso in quei giorni, e dove lei probabilmente salutava o me o mia sorella, e sono gli unici momenti in cui noi ci vedevamo, quindi ecco perché era così... sorridente, ovviamente, perché in questi mesi la situazione invece è peggiorata, come lei ci ha spiegato. Senta, io le volevo, lei di recente ha scritto una lettera che è stata pubblicata il giugno 2008, quando ancora c'era la questione in ballo, cioè verrà estradata Marina Petrella, allora si diceva. Lei ha scritto una lettera pubblicata su Liberazione dal titolo eloquente: vi racconto perché mia madre Marina non deve essere estradata. In questa lettera lei tra l'altro scrive: perché non è ora di girare la pagina di questa storia per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? Le chiedo molto duramente il perché. Per esempio, è perché sua madre non ha pagato, è stata condannata all'ergastolo che deve scontare in Italia e non l'ha fatto. Allora, forse vi voglio dire, per questo non si può girare quella pagina. Ovviamente è una domanda retorica, in quanto a parte io sono la figlia di una persona che ha partecipato ad un periodo storico e politico molto difficile, che ancora oggi non si è risolto del tutto, e quindi ovvio che abbia delle difficoltà ad esprimermi sul fatto e sulla possibilità di far pagare mia madre. C'è proprio un problema nella domanda, ovviamente, come si fa a chiedere a un figlio di relativizzare un dolore di un genitore, anche se questo poi è stato implicato in cose molto gravi, perché non ci sono due piani di analisi, ecco. Visto che quel periodo fa parte della storia, la domanda è: quando si chiuderà? Mia madre, allora, ha pagato facendo già degli anni di carcere in Italia, è andata in Francia perché le condizioni lo permettevano, delle condizioni politiche che esistevano. Ecco, perché con tutte queste considerazioni e con tutto il percorso penale delle persone che sono state implicate in quegli anni, ora 30 anni dopo si continua a... perché non si cambia, ecco, il tono del discorso, e perché non si riapre magari una finestra più politica su questi fatti? Spiego, scusi, perché non trovare questa soluzione politica? Però io insisto su questo punto. Capisco che per lei sia difficile da figlia, ma sua madre è stata condannata all'ergastolo, per lo Stato italiano è latitante, E questo ergastolo non lo sta scontando, lei dice ha pagato con il carcere, sì, un po' in Italia, poi è evasa, poi è andata in Francia, poi era sotto, diciamo, lo scudo della dottrina Mitterrand fino a qualche mese fa quando è stata arrestata, però c'è un ergastolo, voglio dire, da scontare in Italia, è un dato di fatto oggettivo, non lo dice lei da figlia, non lo dico io, lo dicono i tribunali. Va bene, è un dato di fatto oggettivo, però nel 93 gli stessi tribunali hanno rimesso in libertà mia madre considerando che non era più un soggetto politico pericoloso da mantenere in prigione, e questo dato, altro dato di fatto, le ha permesso di venire qui non in latitanza, non come una fuggiasca, ma perché c'era un quadro che le permetteva di farlo. Sì, su questo punto rimanga con noi Elisa Novelli. Io vorrei coinvolgere Sabina Rossa e Andrea Casalegno. Sabina, onorevole Rossa, lei è stata molto dura nelle dichiarazioni, a dire un gesto, credo, una mossa inaccettabile, ci sentiamo addirittura offesi dai francesi. Conferma, vuole anche commentare le parole di Elisa Novelli? Intanto vorrei entrare in... se è possibile in punta di piedi in questa discussione, che è dolorosa, insomma, penso un po' per tutti noi, no? E io ho dichiarato che trovavo inaccettabile la motivazione al carattere umanitario per questi aspetti, perché come scusante alla non concessione dell'estradizione della signora Petrella nel nostro paese, cioè, strideva moltissimo come se l'Italia fosse un paese a rischio, un paese privo di certezze democratiche, come se da noi non potessero essere valutate appieno in modo compiuto lo stato di salute, insomma la malattia della signora Petrella, come se da noi non ci fossero atti come quello che è dato al Presidente della Repubblica di concedere anche la grazia in questi stati. Credo che ho sentito citare la chiusura di quegli anni. Io, insomma, è un qualcosa che mi auguro anch'io. Però credo che questi atti non contribuiscano ad un percorso di verità e di giustizia che possano portare ad una chiusura degli anni di piombo. Nel senso che non favoriscono una pacificazione e testimoniano, se posso aggiungere, anche una sensibilità e una visione sulle vicende di quegli anni molto differenti tra paesi che appartengono all'Unione Europea. Ecco, lei mi ha colpito su questo punto raccontando un episodio di quando due studenti, proprio credo dalla Francia, sono venuti a trovarla per scrivere una tesi sulle Brigate Rosse. Perché? Ce lo vuole raccontare questo episodio? Sì, ma è stato un incontro molto interessante perché queste ragazze, insomma, si chiedevano, volevano, si affacciavano allo studio di questo capitolo della nostra storia recente e volevano sapere in Italia come noi abbiamo vissuto quella stagione. Mi sono resa conto che in Francia è proprio letta e vista in modo molto differente dal nostro. Loro erano qui per capire, mi hanno un po' descritto la visione di quegli anni come una visione in cui queste persone che si sono macchiate, insomma, diciamolo, anche si sono macchiate di atroci delitti, hanno lasciato una lunghissima scia di sangue, sono stati quasi 350 i morti in Italia in quei 30 anni. E c'è un po' in Francia il pensiero che questi terroristi siano stati dei perseguitati politici, quasi qualcuno valore anche così dell'eroe romantico. Guardi, mi ha rubato le parole di bocca, cioè addirittura questa perversione di considerarli con aura romantica attorno. Sì, io mi preoccupo, io da insegnante, insomma, ho scritto anche un libro per i miei studenti, mi preoccupo di come verrà raccontata questa storia recente alle nuove generazioni che non hanno vissuto quegli anni. Io credo che anche la Francia, anche il presidente Sarkozy dovrebbe cominciare a pensare come raccontare le vicende di quegli anni. Vorrei coinvolgere su questo anche Andrea Casalegno. Andrea, il rischio secondo te è quello, cioè è quello di che al di là del caso personale, sul quale ti chiedo un parere, ma voglio dire nessuno ha per carità i referti medici di Marina Petrella sotto mano, e non è questo che vogliamo fare, ma vogliamo ampliare un po' il dibattito su quello che questo caso ha riportato alla luce. C'è questo rischio però di rivedere, di fare una rivisitazione della storia che a te non piace? Ma Allora, andiamo con ordine. Per quanto riguarda il caso personale, credo che in ogni caso singolo debba prevalere su ogni altra considerazione il senso di umanità. Io non posso giudicare da qui le condizioni di Marina Petrella, devo attenermi, evidentemente devo dare fiducia a chi le valuta direttamente, e qui mi fermo, non potrei e neanche vorrei mettere in dubbio questo giudizio. Quindi, per quanto riguarda le ragioni umanitarie, ne prendo semplicemente atto e ribadisco che nel caso singolo le ragioni umanitarie hanno sempre la precedenza. Quello che non mi piace assolutamente, ma non voglio polemizzare con la figlia, perché sono figlio anch'io e quindi siamo nella stessa posizione. Io ho scritto un libro sull'attentato a mio padre e il mio giudizio su coloro che hanno scelto allora la cosiddetta lotta armata è scritto lì ed è un giudizio durissimo. Ma qui non siamo a questo, insomma non siamo a questo. Ciascuno svolge il suo ruolo. Quello che assolutamente non posso accettare, non come figlio di Carlo Casalegno, ma come cittadino italiano, è questa formula che a me sembra molto ambigua, per non dire ipocrita, del voltare pagina, della soluzione politica, della pacificazione. Allora, se noi usiamo il caso Petrella per arrivare lì, io dico no, non c'è alcuna soluzione politica da prendere, non c'è alcuna pacificazione, perché pacificazione implica una guerra in cui ci sono due parti sullo stesso piano, no? Che si sono combattute e si riconoscono l'onore delle armi alla fine della guerra. Quando c'è tu, tu questa guerra l'hai sempre rifiutata come concetto, non c'era nessuna guerra, o meglio una parte aveva dichiarato, ma la guerra si dichiara in due sostanzialmente. Allora, io ci sono tanti ascoltatori, 800 24 00 24, tra poco arriva loro, c'è anche un attimo di pubblicità, ma nella seconda parte avrete spazio. Prima vorrei mettere con Eric Joseph di Liberation in Italia un po' anche il fuoco sull'altra vicenda che insomma ha fatto discutere, vale a dire il ruolo di Carla Bruni e di Valeria Bruni Tedeschi, cioè le due sorelle, una Carla Bruni, come sapete, moglie del presidente Sarkozy. Eric, com'è possibile che qualcuno addirittura ha detto quasi si è comportato più da marito che da presidente Sarkozy, cioè ha secondato la volontà di Carla Bruni, che da tempo diceva bisogna fare retromarcia su il caso Marina Petrella. Qual è la reazione sul ruolo di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi in Francia? Ma da questo punto di vista senz'altro c'è un'interrogazione, sapere quale ruolo ha giocato appunto la première dame de France, la prima donna di Francia in questo caso. Senz'altro ha avuto un ruolo importante anche attraverso la sorella, che era già andata a vedere Marina Petrella in ospedale. Tuttavia penso che ha fatto comunque da tramite, non si può dire, penso che Nicolas Sarkozy abbia soltanto agito sotto la pressione della moglie. Bisogna ricordarsi che già quando aveva detto a giugno che avrebbe mandato estradato Marina Petrella, aveva messo nella sua lettera, aveva richiesto una grazia per Marina Petrella, dicendo che l'avrebbe trasmesso tramite Silvio Berlusconi per il presidente Napolitano. E da lì la risposta, la reazione del presidente Napolitano, senza entrare nel merito, nel giudizio di questa risposta, era stata abbastanza fredda e negativa, e da questo punto di vista c'era la necessità forse o la volontà di trovare una soluzione umanitaria a questo caso umano. E Nicolas Sarkozy ieri ha precisato che è lui che aveva chiesto a Chiara Bruni di andare a trovare Marina Petrella in ospedale. Dunque, senz'altro c'è stato un ruolo, una sensibilizzazione sul caso che è stato effettuato da Carla Bruni presso il presidente Sarkozy, ma comunque rimane un gesto, una decisione politica. C'è la possibilità che questa dottrina Mitterrand, che garantiva l'asilo e che in qualche modo era stata anche abbandonata, abbiamo visto l'estradizione per esempio di Paolo Persichetti in Italia, possa ritornare, oppure è un caso singolo davvero? Ma e questa è l'interrogazione che ci facciamo, sapere se è proprio il caso umano di Marina Petrella che ha portato a questa decisione o se è il ritorno della dottrina Mitterrand. C'è un elemento che ci fa pensare comunque, direi quasi due elementi che ci fanno pensare che comunque c'è una forma di ritorno della dottrina Mitterrand. E il primo è che durante la vicenda Petrella non c'è stato un altro attivista rifugiato in Francia che è stato arrestato, e dunque c'è una lista di una decina di persone, sì, su cui si è richiesto l'estradizione e non è stata attivata per altre persone a parte dunque la Marina Petrella. Poi l'altro elemento è nella sua lettera, quando ha richiesto appunto una grazia per Marina Petrella, pensando ancora a estradarla nel giugno scorso, ha spiegato che c'era la necessità, visto le sue condizioni fisiche, ma anche tenendo conto del tempo trascorso dalla condanna. E questo è un elemento che lascia intendere che c'era un'apertura verso un ritorno alla dottrina. Magari si può chiudere quella pagina storica che Andrea Casalegno ci ha detto no, da questo punto di vista dico il mio secco no. Stiamo parlando del caso di Marina Petrella, l'estradizione prima data, poi negata per motivi umanitari, con la figlia di Marina Petrella, Elisa, con Andrea Casalegno e Eric Joseph, corrispondente di Liberation a Roma. Due ascoltatori, Mauro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo sapere una cosa, premesso che posso capire la difficoltà della figlia della signora Petrella ad analizzare questa situazione, di fatto anche lei è vittima di una cosa che non ha scelto, si sente dire bisogna voltare pagina, bisogna chiudere questa storia dopo 30 anni. Quanti sforzi ha fatto sua madre in questi 30 anni? Quante volte ha scritto, ha chiesto perdono per quello che ha fatto ai familiari delle sue vittime? Perché è questo l'unico modo per voltare veramente pagina. Grazie Mauro. No, la domanda è pertinente, diretta, me l'ha anticipata e la faccio tra poco. La giro ovviamente Elisa Novelli, prima anche l'altro ascoltatore, Fabio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Io faccio un passo indietro rispetto ai sentimenti espressi da tutti rispetto a questo caso, e volevo però un attimo mettere un attimo l'attenzione su un fatto. Ne sentivo parlare anche ieri sera in una trasmissione di Radio 24. C'è una percezione dell'Italia come paese in cui non sia possibile in qualche modo garantire un corretto processo, come se questo paese non fosse, come dire, in una condizione normale da questo punto di vista. Io credo che dall'estero, e questa è la mia percezione, chi guarda al nostro paese senza guardare al fatto degli ultimi 5 minuti, guarda indietro a tutto quello che è successo nel giudizio penale, nei fatti che riguardano la nostra vita politica e come trattiamo certe volte i fatti che riguardano i reati di personaggi in vista, ma non faccio solo gli esempi, è un concetto che penso si possa generalizzare, non abbia problemi a pensare che l'Italia non è un paese in cui si possa garantire un corretto processo. Qui, cioè, lei cosa sta dicendo? Che la condanna all'ergastolo di Marina Petrella è da mettere in dubbio? Perché non è questo, che se devo pensare che ci sia dall'estero una visione di un paese in cui ci possa essere una manipolazione, un'esacerbazione dei contenuti politici di una vicenda in certi momenti storici. Questo mi sembra uno di quelli in cui questo può avvenire, secondo me ha ragione. Beh, però insomma Sarkozy mai e poi mai avrebbe detto e non ha detto non diamo l'estradizione perché abbiamo dei dubbi su quella sentenza o sul fatto che sia stata inficiata da motivazioni politiche. Sarebbe stato un gesto clamoroso, questo sì, caro Fabio. Comunque grazie per il suo intervento. Elisa Novelli, sua madre chiede all'ascoltatore, guardi, sono arrivate tantissime mail, tantissime sms con la stessa domanda. Pubblicamente non si è mai pentita. Le ha mai come le ha raccontato quei fatti? Voglio dire, le ha mai detto ho sbagliato? Allora, prima di rispondere alla domanda, appunto, vorrei dire, ripetere quello che è stato scritto anche ieri nei giornali. Il presidente Sarkozy, appunto, ha veramente considerato il fatto Marina Petrella come un fatto umanitario legato alle sue condizioni di salute. Singolo, quindi. Ovviamente non c'entra assolutamente il fatto di rimettere in causa una giustizia penale italiana di quegli anni, assolutamente. Allora, io sono nata in carcere, i miei due genitori erano a Rebibbia per tanti anni, quindi non c'è stato bisogno di parlare dei fatti, visto che li ho vissuti in prima persona, essendo proprio direttamente legata alle conseguenze di quegli anni. Devo dire che venendo in Francia, e questo può essere, e non posso assolutamente rispondere per mia madre, però fa parte appunto anche di un cambiamento radicale della propria visione del mondo politico e sociale, il fatto di comunque abbandonare tutte le idee terroriste, come si potrebbe ora considerare, con termini che è impiegato a volte per queste vicende. Ha ragione forse. Ha ragione forse. Cioè impiegato ha ragione. Forse sì. Forse il mio era ironico, il mio per me è impiegato ha ragione, voglio dire, ma continui col suo ragionamento che è interessante. Ecco, quindi lei è diventata una travailleuse sociale, si dice in Francia, in italiano un'assistente sociale, che si è impiegata appunto a vivere nel mondo sociale e politico che si è costruito. Quindi non più su delle basi che potevano essere quelle della riflessione politica. Mi scusi, lei dice andare in Francia vuol dire avere abbandonato quella lotta armata. Qualcuno potrebbe anche molto banalmente ridurla invece a dire andare in Francia è stata una fuga dalle responsabilità penali, voglio dire, dai processi. No, io dico che andare in Francia ha fatto parte del cambiamento di una visione del mondo che non si accettava fino a quel punto. Ma secondo lei, le chiedo direttamente, è possibile cambiare una visione del mondo e non accettarla più avendosi lasciato alle spalle qualche omicidio e quindi qualche persona uccisa? Allora, se quegli atti fanno parte di una visione del mondo che non si accetta al momento in cui questa visione cambia, credo che ci deve essere assolutamente un lavoro personale, e a volte c'è chi lo rende pubblico, per dire effettivamente io non sono più quel soggetto, anche se assumendo quegli atti, voglio dire, perché al momento in cui sono stati fatti c'è stata una condanna, non si può tornare indietro, però da quel momento in poi non sono più quel soggetto che ha causato tutte queste cose terribili. Saltando, ripeto, insisto su questo, poi voglio passare ad Andrea Casalino, saltando però quel passaggio che non è indifferente, vale a dire l'espiazione della pena. Cioè dire sono una persona diversa, cambio pagina, coi miei gesti concretamente, vado in Francia, faccio l'assistente sociale, mi metto il passato alle spalle, faccio vedere che non sono più quella persona, io posso anche crederci, però manca quel passaggio, l'espiazione della pena. Quel passaggio, quell'espiazione della pena, a parte gli anni fatti già scontati in Italia, sono stati 8, è stato possibile perché appunto quel clima, il clima politico della dottrina Mitterrand lo permetteva senza una nozione di fuga, visto che non è mai stata latitante in Francia, visto che è stato un percorso possibile grazie a degli accordi o comunque dei dati di fatto. È questa anche l'espiazione della pena, il fatto di permettere ad un certo tipo di persone che hanno partecipato ad alcuni atti di rendersi conto che quei loro atti non sono più possibili in questo mondo, perché questo mondo non è come lo dicevano loro. Andrea Casalegno, c'è il timore, come dice Rick Joseph, che si torni a una sorta di dottrina Mitterrand, se poi vuoi anche commentare insomma le parole che hai pronunciato. Credo effettivamente che questo sia il tema più serio, cioè che dietro le ragioni umanitarie che, ripeto, nel caso singolo devono sempre essere prevalenti, si riaffacci in modo un po' surrettizio quella dottrina Mitterrand che noi non possiamo accettare, perché significa far passare per perseguitati politici, questa è la sostanza, cioè proteggere come perseguitati politici degli individui che erano semplicemente degli assassini. Per semplicemente non intendo un giudizio morale, insomma, intendo che si erano autoqualificati combattenti, ma non basta qualificarsi da sé per esserlo. Erano persone che avevano abbracciato una via completamente ingiustificata, mentre la stragrande maggioranza degli altri giovani, anche di sinistra, anche estremisti, si erano fermati prima, e cioè davanti all'orrore dell'assassinio. Quindi se effettivamente tutto ciò viene usato, ed è per questo che sono contrario al passaggio, no, dal caso Petrella al riapriamo il problema di chiudere gli anni di piombo, di no, passare un colpo di spugna, di pacificare, eccetera. Allora, se usiamo questo caso in questo modo, non sono d'accordo. Per quanto riguarda i giudizi di una figlia, io ritengo che non sia compito dei figli giudicare i propri genitori, come non è compito dei genitori giudicare i figli. Per le persone che si amano ci si batte, punto e basta. Lia da Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Allora, al di là del fatto umano, che è comprensibilissimo, soprattutto da parte della figlia, io volevo parlare volevo sottolineare il fenomeno più in generale e contrastare quello che ha detto la figlia. Non è vero che questi signori andavano in Francia per cambiare vita, perché in questi anni, io ne sono testimone, nel senso che purtroppo ho vissuto a fianco stava moglie di un loro fiancheggiatore fin quando non ho più potuto, e quindi poi siamo andati a finire in separazione giudiziale, sta tutto agli atti. Questi signori telefonavano regolarmente, continuavano a mantenere reti capillari più o meno di pensiero, di riunioni e di cose. Quindi non è vero quello che dice la figlia, che hanno cambiato sistema o hanno fatto una scelta cambiando nazione. In Italia si sono mantenute, questi signori telefonavano regolarmente, si incontravano regolarmente, persone che, cioè, io che l'ho vissuta dal di dentro, mi sembrava assurdo che un latitante potesse avere la fidanzata che portava i dolcetti avanti e indietro sugli aerei di Parigi. Insomma, lei dubita che il passaggio in Francia possa anche comportare una svolta nella vita personale, ecco, delle idee? Sono andati a riparare in Francia da bravi vigliacchi, mi sia perdonato il termine, però da lì hanno continuato a fomentare quei Peter Pan della politica, extraparlamentare, anarchici, ex 68ini, che speravano ancora in questa utopica folle rivoluzione o di combattere lo Stato. E guardi, io parlo con cognizione di causa perché ho dato le relazioni agli organi competenti. No, no, ma ce l'ha già detto, insomma, del fatto che l'ha vissuto in primo piano. Grazie, Lia da Napoli. Elisa Novelli, le chiedo. Lei, voglio dire, prima ha usato una perifrasi a dire, definire sua madre che ha preso parte a un periodo storico nel quale si sono compiute. Le chiedo, lei fa fatica a definire sua madre una terrorista? Io definisco mia madre perché mia madre, e appunto non può essere una definizione obiettiva, come una persona che è stata presente, non sempre, perché ci sono stati appunto dei periodi in cui la giustizia si è presa, come una persona capace di avermi fatto crescere in modo equilibrato. E non posso definire mia madre con altri termini. Però l'amore è questo, un giudizio soggettivo. E questo sicuramente, dopodiché le persone possono anche sbagliare, e possono sbagliare anche le madri, i figli, i padri, e si può anche dirlo, voglio dire, se uno lo pensa, voglio dire, non per questo intaccando il senso di amore che lei deve avere, insomma, è sua madre. Però le fa fatica, insomma, non le darebbe questa. Allora, mia madre ha fatto delle scelte che erano, allora, il termine italiano non saprei trovarlo, ma jusqu'au boutiste, assolutamente radicali, che io non sarei in grado, per tante ragioni, almeno sbagliate, possiamo dire scelte sbagliate, questo lo può dire? E in certi estremi potrebbero anche essere sbagliate, credo che, scusi, quando un'ideologia porta a compiere degli atti irreparabili, bisogna sempre far passare la nozione di diritto, di vita prima del resto, ecco. Per quanto mi riguarda, è una mia visione. Cioè, però lei dice potrebbero essere sbagliate, non se la sente di dire mia madre in un periodo della vita ha sbagliato, può capitare. Ma non è a me dire se mia madre ha sbagliato, è a lei di farlo, di pensarci. Io non c'ero in quegli anni, io sono nata molto dopo e ho vissuto le le tappe successive di questo suo di questa sua determinazione politica, ecco. Quindi le chiedo in conclusione, voglio dire, lei ha anche detto recentemente, a me potrei anche voler dire qualcosa ai parenti delle vittime, però sono arrivati tantissimi ancora messaggi email proprio che puntano su questo, e glielo dico in maniera diretta, cioè per alcuni gesti per i quali sua madre è stata condannata ci sono persone che non sono potute crescere con i propri figli, andare a vedere una partita di calcio insieme, sposarsi, portarli all'altare, darsi un abbraccio, cioè questa cosa lei come la vive? La vive come un qualcosa che non la riguarda perché non la riguarda, oppure la riguarda? Beh, non sono responsabile io delle cause, degli atti di mia madre, credo che questa sia... E questo è pacifico. E sia una cosa che tutti possono capire. Per quanto riguarda la sofferenza, invece, la ricostruzione lontano da una persona amata, visto che ci ho dovuto fare i conti anch'io, posso capire, e la sofferenza non ha una scaletta di, voglio dire, è al di là di tutte le considerazioni politiche, la sofferenza per la perdita di una persona amata, e posso assolutamente capire, basta immaginarlo qualche minuto, vivere una situazione così dolorosa, ed è questo che vorrei esprimere, che in un modo o in un altro siamo noi delle vittime, io tra virgolette, perché sono subentrata molto tempo dopo di quegli anni, e insomma tanta solidarietà con il dolore di tutti, in modo molto umile ovviamente, che non ci sia un'incomprensione sul fatto di non riconoscere la sofferenza di chi ha perso per via di quegli anni una persona amata. Io mi fermo qui, la ringrazio, voglio ricordare Lisa Novelli da Parigi, è figlia di Marina Petrella, così come ringrazio Andrea Casalegno, collega del Sole 24 Ore, Ricky Joseph e l'onorevole Sabina Rossa. Ci fermiamo qui anche per oggi, sono arrivate tante mail, risponderò a tutti personalmente come sempre, 800 24 00 24, questo è il numero, viva voce, radio24.it la nostra mail, grazie a Elisabetta Fusconi e Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matè in regia. A domattina.